provano a convincerci che il riarmo sia qualcosa di economicamente necessario, che ricreerà posti di lavoro, che reindustrializzerà l'economia. No, il riarmo è anche economicamente stupido, atroce e non funzionerà. Creerà soltanto un enorme debito finanziario, creerà nuova economia fossile, inquinamento, e creerà quel particolare circolo vizioso per cui l'economia di guerra ha bisogno della guerra, per cui si producono armi che avranno bisogno di guerre con cui si giustificherà la nuova produzione di armi. E allora è normale che l'idea che le fabbriche possono essere riconvertite ecologicamente e che questo lo possono fare le comunità, i lavoratori licenziati, la ricerca pubblica, l'università pubblica, è qualcosa che dà fastidio al sistema. È il motivo per cui probabilmente la reindustrializzazione dal basso dell'ex GKN non deve mai partire. E mai partire vuol dire che contro di noi c'è un muro di gomma fatto di logoramento, rinvii continui, dove non c'è soltanto chi ci avversa apertamente, ma anche una serie di finti amici che di volta in volta entrano nella partita dicendo che sono con noi, ma ci fanno perdere tempo. Come ad esempio sta succedendo con l'intervento pubblico che su questo stabilimento continua a mancare. E allora, metodo flottiglia, noi salpiamo, proviamo a salpare, ad essere la flottiglia nell'economia di chiunque si voglia opporre al riarmo e voglia far partire la riconversione ecologica. Per questo oggi partiamo con un secondo round dell'azionariato popolare. Abbiamo già avuto manifestazioni di interesse per oltre 1 milione di euro di azionariato popolare, ma oggi dobbiamo rompere il boicottaggio e il logoramento e provare a partire a tutti i costi, e quindi apriamo una seconda campagna di azionariato popolare. Chiediamo a tutti i movimenti, a tutte le associazioni, a tutte le organizzazioni radicali, a chiunque voglia la riconversione ecologica ed avere un esempio concreto su cui basare un'alternativa, di donare a favore di un unico azionariato popolare collettivo che possa permetterci di rompere questo boicottaggio.